perché questo è l'inno, l'inno sì, il corpo scialto. Ci hanno detto vili, brutti e schifosi, ma son soltanto degli stitici gelosi. Ma il corpo è lieto, lo sguardo è puro, noi siamo quelli che han cacato di sicuro. Pulirci il culo da gioie infinite, con foglie di zucca, di bietola o di vite. Quindi cacate, perché è dimostrato, ci si pulisce il culo dopo aver cacato. Evviva i cessi, siamo benedetti, evviva i bagni, le palazze e i gabinetti, evviva i campi da concimare, viva l'arda e chi ha voglia di cacare. Il bello nostro è che ci si incazza parecchio, ci si calma solo dopo averne fatto un secchio. La voglia è reggere per una stagione, e con la merda puoi far la rivoluzione. Pieni di merda andremo a lavorare, poi tutto un tratto si fa quello che ci pare. E a chi ci dice, dice te fai questo o quello, gli caghiamo addosso e lo copriamo fino al cervello. Cacone, merdone, stronzone, puzzone, la merda che mi scappa si spappa su di te. Ok, non c'è bisogno di presentazioni, mi sembra. E... no, Roberto, no, non c'è bisogno. Non c'è bisogno. Sotto abbiamo i treni all'alba da Val d'Aosta che ci fanno gentilmente da tappeto con l'arte della guerra. Lo dico molto, tutto molto. Tutto strumentale, suonato gradevole. Suonato a mano. Con le dita. Nettuno e Belluno in diretta da Radio Zam. Esatto, 8 maggio. Yesterday. Nuovo pezzo che diciamo introduciamo. Sono dei contadini. Dei contadini di Codogno. Contadini di Codogno. Ostia. Cioè, tra l'altro suonano free entry al Bloom di Mezzago, quindi siamo a nord Milano in provincia. La serata è Come On Artax Fest. Ciuciunda. Loro e altri due gruppi, Used to be Apes e To the Max. At gratis, come dice zio Paperone. At gratis, presentano un nuovo disco, penso. Noi però vi facciamo ascoltare quello vecchio, perché è quello che ci abbiamo. Quello quindi. Vecchio è l'album in festa, purtroppo non viene registrato dal vinile, viene preso da un MP3 del 2017 con Catreca. Catreca. KH, Catreca. È un duo. Batteria, chitarra. Un duo che picchia, Contadini. Zolle. We'll be right back. Macelleresti mai il cranio a tuo cugino con una zampa di maiale? No. Appenderesti mai una vecchietta per i piedi ad un elicottero? No. Strapperesti mai le orecchie ai tuoi negozianti di fiducia? No. Scaricheresti mai un film da internet? Sì. Scaricare un film da internet è reato? E mi hai detto sì. Hai detto sì? Hai detto sì? Ah, sì. Ho sentito, scusa. Ragazzi, vi spiazziamo come se non ci fosse un domani. L'Eclito, Se la vita è faticosa, Milano. È uno dei primi, se non il primo, gruppo composto da tutte donne. Tutte donne, difatti io ho detto Eclito, c'è scritto e basta, il titolo del gruppo, il nome del gruppo è solo questo, Eclito 100%. Se la vita è faticosa, 77, 1900. Formate nel 77, sì. Questo è punk. Questo è punk proprio sofferto, è proprio quello originale, Original punk. E da bravi punk ve lo stiamo andando senza sottofondo, solo con le nostre due vicine. Tra l'altro penso che non abbiano inciso LP, cioè saranno singoli probabilmente. Ragazzi, una chicca singola senza LP e vi cuccate la pubblicità a sto punto. Poi va che qui sono veramente ignoranti. Perché? E le pere le metto sugli alberi. E dove dovrebbero metterle? Io l'ho sempre viste nelle cassette. Ma originariamente nelle cassette, cioè nascono nelle cassette. Poi una volta mature le mettono sugli alberi. Ah, e l'ortolano? Sta bene, grazie. Questo è un fuori quota, eh? Dicesi fuori quota quei gruppi che, essendo italici, italiani, italianisti, cantano in inglese. Lingua straniera, non inglese, qualsiasi lingua che non sia l'italiano. Sì. Allora, Nettuno, cioè no, volevo dire Belluno, in realtà sta approfittando di giocare col mixer per lasciarmi solo e quindi dispensarsi dalla sua parte microfonica. No, no, ci sono, stavo spippolando. Allora, vuoi presentare lei chi è passato e non trapassato? Allora, i cosiddetti fuori quota erano gli Horror Vacui, gruppo di Bologna, da Rojnikov. Questo è new wave, diciamo. Lucy. Un disco abbastanza recente, quindi bravi. Invece introduciamo questi prossimi. Li introduciamo dal 25 aprile di quest'anno. Sì, perché quella famosa settimana di baccanali che ci sono appena conclusi. Sono appena conclusi, settimana che abbiamo lavorato però noi, perché il 20, 20 22-23 abbiamo registrato la puntata, quindi, e poi il 25 insomma abbiamo acquisito materiale. Siamo andati in questo, Chiesa Rossa in quei di Chiesa Rossa, la festa dei partigiani nel quartiere, ove ivi siamo andati a ballare. E che cosa ballavamo? Pogando, ve la butto lì, suonato tutto a mano. Il nome lo diciamo prima o lo diciamo dopo? Lo diciamo prima, lo diciamo così, prima, così almeno uno se lo segna subito. Va bene, allora Mephisto Brass, non li conoscevo, molta buona impressione effettivamente. E con Creva il Cuore. Interrompo il tappetino, ragazzi, un saluto, ciao Mephisto Brass, tanto poco. E tunza tunza tunza. È tutto suonato a mano, un trombone, un'altra trombetta, un tamburone, una tastiera, una voce. E sembra di essere io. Spazio. Thank you. Mi rivolgo a te, maschio pubere stordito, a te per cui la scalata al monte di Venere è impervia e irta di figure di palta, a te che se devi fare un complimento a una ragazza riesci solo a dire noi abbiamo un prodottino che può rimediare al tuo problema. No, non lo risolve. Non si può risolvere. Non serve al sistema. La soluzione dei problemi blocca il sistema. Quello che ci serve è rimediare al tuo problema solo temporaneamente, così poi il problema si ripresenta e noi ti possiamo vendere un nuovo rimedio. È l'economia, bellezza. Solo noi abbiamo il rimedio giusto per te. Sei timido? Non vuoi fare figure di palta? Ascolta, ragazzo, non drogarti. Mi rivolgo a te. Rientriamo un po' in un omaggio, nel senso che scoprendo, andando in giro per il mondo, abbiamo scoperto la Mask Production, che nel 1983 editava un vinile con una raccolta di musica italiana. New Wave potrebbe essere riduttivo. Allora, in questo momento sono passati Liz Frank, e sarebbe un fuori quota anche questo, perché effettivamente È vero. Sì, l'abbiamo un po' introdotto a sorpresa, effettivamente, però è un fuori quota italiano, siamo negli anni 80, appunto, penso che sia Savona. Savona, eh? Ok. Sì. E insomma, dalle ceneri dei... praticamente quest'altro gruppo che aveva formato precedentemente gli Electric Nostalgia. Ullalalala. E insomma forma questo Liz Frank, un sound tipicamente 80... dica dica dica dica, ho visto che si inerpicava su delle vette con dei parallelepipedi, un sesto grado, un settimo grado. Non è il mio campo, ragazzi. Vabbè, mi avete messo così a tradimento. Io lo dicevo, nella musica suonata a mano, questa è capitata così a tradimento, abusiamo coi fuori quota, però ragazzi, tutto suonato è uno sgambetto proprio a centrocampo. Ok, comunque tutto suonato a mano con le macchine del 1983, nel senso, questo è uno sperimentale hard, roba seria, no? Vabbè, visto che fate tutti pretenziosi, vi beccate gli LSD e interrompo anche i treni all'alba con le streghe, ma sì, così, e che cazzo. Chi è che ha principato i vandali? È stato Gino. E chi è che ha rimesso i guardiani? Gino, Gino. E chi l'ha rimesso i capribati? Sempre Gino. E chi è che ha fatto il capestà? È stato Gino. E allora Gino lo menavo. Lo menavo, lo menavo. Sì, sì, sì, lo menavo. Allora Gino lo menavo. Sca, sca, sca, sca. Chi è che ha bisogno di invali? Gino. È quello che ha detto che va di pedivali. Sempre Gino. E chi è che mi si dice che si tripiati? Gino, Gino. E quello che dice fa ripetere a? È stato Gino. E la mia Gino lo menavo. Lo menavo, lo menavo. Sì, sì, sì, lo menavo. La mia Gino lo menavo. Lo menavo. È Gino che ha pensato. Gino. E chi è che ha messo in casa? Gino? No, Gino no. È Gino che l'ha messo a sbagliare. No, non è stato Gino. E chi è che ha messo in casa? È Gino. E noi a Gino lo belavo. No, non è stato Gino. Zona, parapapà. Non è stato Gino. E chi è che ha messo la trivessa del disco del nostro che avete volato? Boh, che ne so. Boh, sarà stato Mario. Mario. E noi a Mario lo belavo. Basso elettrico, Marco. Mario. No, Marco. Mario. Marco, suonare con noi. Noi a Mario lo menamo. Mario sì, ma lui è Marco, amico. Noi a Mario lo menamo. Sì, ma lui è amico nostro, latte sui derivati, amici, suonare insieme. Tu Gino. No, io no, Gino. Tu Gino e fa comunella e protegge Mario. Io da una botta e voi muore tutte e due. Senti, guarda... No... No, non fare così, lui è Marco, noi amici, latte e suoi derivati, noi suonare insieme. Senti, senti odore del gruppo, annusa Mario. Ecco, ora annusa te stesso, stesso odore, noi amici. Uguale. Infatti uguale. Come perché... si spiega? Perché uguale? Perché siete amici, odore anche me adesso, senti, senti. Peggio, tu molto più amico, tuo amico, lui Mario. No, senti, guarda, concentrati, dai. Marco. Marco. Mar. Dai. Mar, Mario, Mar, Marcazzo di nome, Mar, Mar, no chiacchiere, botte. Dai, dai, dai, dai, concentrati. Meglio dai. Mario, Mario, mena, botte. Dai, dai, su, dai, Mar, Mar, Mar, Mar, Mar, Mar, Mar, Marco. Oh, Marco, oh. E noi a Marco lo vediamo. We'll be right back. basso elettrico Emanuele Big Mouth Brignola. Emanuele lo vedamo. Alla batteria Paolo Di Orazio. Paolo lo vedamo. Alle tastiere Enrico The Teacher Cosimi. Enrico lo vedamo. Alla chitarra Fabio De Fabulo Staddeo. A Fabio lo vedamo. Al sax Gigi Baby Pozzi Pezzi. Tu basta musica. Pezzi pazzi e pizzi. Sei circondato, sei circondato, arrenditi! Ah! Ah! Gino! Mario! Ah! Tucchi tucchi tucchi tucchi tucchi ta. Stimmate dei latte. Il latte. I suoi derivati. Vada con il calendario che continua, perché qui mandiamo un altro gruppo che suona. Calendario continua, sì sì. Il gruppo, vabbè, qui siamo nella storia del grind italiano. Dico grind perché mi piace, non dico grind. Bravo, dico grind. Bravo, mi piace, come diceva Andrea Pazienza, grind, which you want, esatto, inglese italianuto. La storia, molto riconosciuti all'estero, un po' meno in Italia. Suonano allo spazio 211 a Torino. Sono i Triple Bastards. Sì, è sì. Veramente un pezzo di storia con Italia. No, di merda! Ciao ciao! Ehi. Beh, concetto molto chiaro, direi. Sì, era era storia, era storia. Pezzo vecchiotto negli anni 80. Anni 80 addirittura, non pensavo alla mia ignoranza. Comunque sì. Io forse 90, effettivamente, forse 90. Era storia. Abusiamo che fuori quota. Stessa raccolta. La Mass Production. Passiamo a Modena stavolta. Questi qui erano i Criminal Killer Division, no? Di la cui conoscenza ringraziamo la Mass Production che vinilava nel 1983 questo prodotto, e noi ci auguriamo che torni, se non a vinilare, che va benissimo, a produrre altra musica, perché mi sembra un bell'augurio. Stavamo andando con... con i consigli, perché noi ci pieghiamo anche noi siamo schiavi del mercato, schiavi del mercato, ragazzi, se no il programma non va avanti. Vuoi trovare un nuovo ristorante più alla moda che ti faccia fare bella figura con una tua nuova fiamma? Da oggi Pasta e Patate. Pasta e Patate è l'unica cosa che ti puoi permettere con l'aria che tira. Pasta e Patate, almeno mangi. Non occorrono porte per avvicinarsi a Dio, se c'è la fede. La fede? Mia cara, quanta ingenuità in quello che dici. Guarda, ma guardati attorno, come puoi credere nella bontà del genere umano? Fame, pestilenze, guerre, malattie e morte. L'orrore governa il mondo. C'è anche l'amore, la vita, la speranza. Ben poca speranza, credimi. No. Se veramente è mai esistito un Dio di vita e di amore, egli è morto da tempo. Yeah. pietà. Dice pietà. La pietà è morta, diceva il libro. Questi erano in lutto, un progetto di Siracusa, di un personaggio che ha inventato questo sound romantic black metal. Romantic gothic. Non so quanto è romantic effettivamente. Però la rossa... sì, un po' romantic, ma è molto gothic. La rossa pestilenza, un bel intro. In questi giorni si sono tenute a Bruxelles le riunioni del Comitato di Difesa della NATO, che precedono una riunione del Consiglio Atlantico vero e proprio. Nella prima riunione dei ministri della Difesa è emerso uno spirito assai freddo nei confronti dei destini grandi e progressivi della NATO. Si è sentito proporre una riduzione degli stanziamenti militari dei Paesi membri. È la prima volta che i ministri della Difesa dell'Alleanza giungono a tanto. Non solo. È stato proposto di non accrescere i bilanci, si è chiesto addirittura di diminuirli. Ciò è avvenuto malgrado che, come consuetudine, la sessione dei ministeri degli esteri si sia aperta con la solita relazione terroristica sulla dilatazione del potenziale militare sovietico. Ma quest'anno da Varsavia le notizie sono state deludenti, perché da quella parte non si aumenta quantitativamente. A questo punto il documento NATO si allarma perché gli orientali puntano sui miglioramenti qualitativi, dal che deriverebbe l'immediata necessità di investire maggiormente in armamenti. Da Varsavia si attende ancora una risposta alla proposta avanzata qualche mese fa di sciogliere contemporaneamente le due alleanze militari. Da Washington invece si apprende che il Senato statunitense ha respinto la mozione di Mike Mansfield per la riduzione delle truppe USA in Europa. Il ministro della difesa dei Paesi Bassi, Vredeling, è giunto ad ipotizzare una vera smobilitazione di tutto l'apparato del suo paese alla NATO. Allora, esco un attimo dal personaggio. Questo era Giovanni Campelli che scriveva su una rivista nominata una rivista Sette Giorni, insomma. Scriveva 50 anni fa, 23 giugno 1974. Liberté, liberté, liberté, liberté, liberté, liberté, liberté. Gioi Vinicio con lo sfratto, presidente in via Lombroso, ricercando una dimora, si ponevan pensierosi, non sapendo come fare, in che luogo dimorare. Chiesero un'informazione a chi ha ogni soluzione. Liberté, a nord di Porta Palazzo c'è una terra di frontiera, bella come il paradiso e la chiamano la barriera. Ci sono mille infrastrutture, c'è lavoro, tanta grana, cosa aspetti, fai un trasloco e vieni a vivere di noi. E allora vieni a vivere di noi. Terre di vallate è sempre estate, le tasse non le paghi se non vuoi e ti puoi fare i cazzi tuoi. Vieni a vivere di noi, è sostenibile e riciclabile e per vicino scegli quello che vuoi tu, uno underground o uno Zulu, e per vicino scegli quello che vuoi tu, uno underground o uno Zulu. Liberté, liberté, passati 38 anni da quel giorno del trasloco, Forse siamo un po' cambiati, ma in noi non si è spento il fuoco che ha animato queste vite. Tra la gioia e la natura ci godiamo la vecchiaia, coltivando l'orpastura, cantando mille di noi, verdi vallate e sempre estate. Le tasse non le paghi se non vuoi, e ti puoi fare i cazzi tuoi. Vieni a vivere di noi, è sostenibile, è riciclabile, e per vicino scegli quello che vuoi tu, uno underground o uno zulu, e per vicino scegli quello che vuoi tu, un underground o uno. Allora, Trio Marciano da Torino. Viene a vivere di noi. Di noi, mica poco. Allora, piccolo aggiornamento sui fatti già commentati nelle puntate precedenti. Bravo, dillo. Giusto per non mollare, diciamo, le tematiche. Parlavamo di supermercati, parlavamo di... contratti non rinnovati, parlavamo di mobilitazioni in tutta Italia, buona parte dell'Italia del Nord, insomma, sostanzialmente dopo un po' di mesi, poco prima del 25 aprile è stato firmato il contratto di rinnovo. Ora non sono un tecnico, non sono un tecnico, quindi non so poi effettivamente se la cosa è andata iper a vantaggio, però insomma un minimo accordo è stato raggiunto, quindi li dobbiamo classificare tra i buoni? No, non vogliamo, cioè questa è a dimostrazione che lo sciopero qualche volta può funzionare in qualche parte. O funziona, funziona. Esatto. Cagno Moon, Giobia, da Milano. Potete accendervi la sigaretta o quello che avete, il calumet. Potete rilassarvi abbondantemente, perché mi sa che qui Canyon Moon va per le lunghe. Assolutamente, cioè. È un viaggio interspalato, perché comunque l'album è Intergalactic Connection. È uno Sticky. Split. Sticky. Traducimi split velocemente. È un album fatto in due, con due, uno una facciata, uno un altro. Lato A, Giobia, lato B, non ricordo. D'accordo. Un lato uno, un lato l'altro gruppo. Sì. Piazziamo un po', giusto per sentirti bene. We'll be right back. Questi erano i Giobia con Canyon Moon da Milano, lo Psyche Core. Ah, scusa. Mi piace questo video, lo metto sempre. Perché... E no, volevo presentare giusto i ragazzacci. Niente, ma escluso dal microfono apposta. Ah, ho dovuto mettermi io con le mie mani perché tendeva. Canyon Moon e Giobia da Milano, tanta roba. Suonata a mano, qui insistiamo su suonata a mano, eh. Poi abbiamo anche gli amici che fanno con le macchine, ma ritornando allo stivale e alla fatica che lo si fa. Lo stivale che fa male. Bravo. Mi piace la rima baciata. Sentiamo prima cosa vogliono i signori, eh? Ecco, bravo. E poi per favore non buttiamo subito in politica. Politica, eh? No, comunisti, fascisti, ancora. Fascisti. Signora, noi prima di tutto siamo concittadini italiani. Italiani. Ecco. E come diceva giustamente il brigadiere, ci possiamo mettere pure d'accordo fra di noi, no? Giusto. Metterci d'accordo su cosa, scusi? Su questo spiacevole qui pro e quo. Ma perché che non si dice così? No, guardi, lei dica pure come le pare. Ma la questione non è tra noi due. In Italia ci sono ancora delle leggi. Ma guardi che lei era buttata sul personale. Ma come lei va dai carabinieri, fa le denunce, fa... E per forza. O è andato in giro con le pistole a fare il tirassegno. C'è stato anche un ferito, lo sa o no? No, a me sono concesso che le cose sono andate come dice lei. Dico, ma c'è una denuncia della presunta vittima? No. No. E allora? Ma che bisogno c'è di mettere in mezzo i carabinieri e di rovinarsi le ferie? Bravo, mettiamoci d'accordo tra di noi, no? Perché scomodare le leggi? Tanto quello è un poveraccio, uno straniero, senza diritti. Sa cosa le dico, signor Mazzaluppi? Il suo è un ragionamento da mafioso. Questa è mafia. Oh. Giusto. Gente accanto a voi, mi denuncia con lo sguardo. Come che urlare, scatenare il vostro corpo. Capita puta mai, non c'è una spiegazione. Urlare contro qualcosa, urlare contro il potere. Urlare contro il potere. Ci stanno uccidendo al suono della nostra musica. Signore e signori, i peggio punks Ci stanno uccidendo il ritmo della nostra musica. Era un po' sottolineato con l'intervento di prima. Siamo nel 1985, un EP da Alessandria. Però, mica male. Alessandria, siamo sempre nella zona lì un po' degli walkie talkie, anche loro arrivano ad Alessandria. Vero? Sì, sì, no. Mi sa di sì. Quindi tanto Piemonte. E vi aggiungo due eventi, giusto perché c'erano due incontri musicali. Wow. Perché ce ne sono un sacco, quindi boh, li butto lì, magari interessa qualcuno. Allora, sabato 11 maggio ci sono i 18 anni dello Shigera. Siamo in zona Bovisa, Milano, quadrante nord-ovest. Vado bene, vada bene a livello geografico. E suona Ginevra Di Marco, e sti cazzi, la famosa, insomma, cantante già partecipe nei CSI a fare qualcosa, poi ha fatto un sacco di progetti da sola, e niente, la festa dei 18 anni, quindi c'è lei. Io penso che un deca lo vogliano, io ve lo dico. C'è il soldino. E poi diciamo anche che ci sono, visto che li abbiamo messi nelle puntate precedenti, i DS a comando. Non li abbiamo messi questa puntata perché tanto rap, le quote, sti cazzi, e la prossima volta torneranno i DS a comando. Adesso sì, diciamo che per mantenere la scaletta, no? Sì, no, non li mettiamo all'ultimo momento, se no ci incasiniamo a mille. E però suonano al cantiere sempre sabato. Qui il prezzo è molto più modico, probabilmente sarà classica entrata sottoscrizione. E potrebbe valer la pena per il DSA comando, visto che li avete ascoltati alle nostre casse. Assolutamente. E poi vabbè, ce ne ho altri due, ve li dico dopo. Intanto affrontiamo la parte, diciamo, religiosa della l'ora questione. L'ora di religione. E tolgo Boffaland, che ci ha accompagnato con la sua musica elettronica. Anche questo noi li mettiamo come tappeti, ma gente che va a strumentare con le macchine a piedi, tanto di cappello, grazie che ci regalano la loro musica. Vero, regalato questa gentile disposizione. Vado con l'ora di religione? Vada con l'ora di religione. Sì, sì, attacco, sì. Prego. Che mix. Mamma, non ci vengo in discoteca. Possiamo andare in chiesa se vuoi. La mia vita ha preso un'altra piega. Scusami, sono un papa boy. Anche San Tommaso non credeva che Gesù Cristo è morto per noi. Io sto seguendo una stella cometa. Noi siamo tutti quanti figli suoi. Sono pretofilo, padre ho peccato con lei. Pretofilo, padre ho peccato con lei. Padre, andiamo in gita cattolica. Voglio stare solo con lei. Saliamo su nella sua canonica. Lei fa il mio re, io faccio i giudei. Le faccio un cocktail senza la tonica. Ci metto l'acqua santa al Bombay. Prometto, se si leva la tonaca, parliamo male di Galilei. Sono un pretofilo, padre ho peccato con lei. Sono un pretofilo, padre ho peccato con lei. Se le piacciono i bambini, possiamo fare un piccolo Gesù. Dio benedica le unioni civili, sposare un prete non è tabù. Coi soldi che ha raccolto dai fedeli, compriamoci una nuova TV. Perché prima del regno dei cieli, dobbiamo stare in pace qua giù. Sono un pretofilo, padre ho peccato con lei. Sono un pretofilo, padre ho peccato con lei. paparazzinger. Abbiate il coraggio di dire che non vi vogliamo bene, che vi mandiamo delle chicche come queste. Madonna, Van Houtens, questo è un pezzo bomba proprio. Pretofilo, vi beccate la pubblicità doppia. Sei preoccupato cazzi. Per l'ambiente, ma non vuoi rinunciare al tuo telefonino per rimanere connesso con i tuoi cari? Prova il nuovo Ecofon Verde della Fast Plus. Ecofon Verde della Fast Plus telefona come gli altri telefonini, manda SMS, naviga su internet e scarica le email come gli altri telefonini, ha la scocca in plastica e le batterie a litio come gli altri telefonini. Anzi, è uguale in tutto e per tutto agli altri telefonini. Ma se ami l'ambiente, compra il nuovo Ecofon Verde della Fast Plus, l'unico telefonino uguale agli altri telefonini, ma con l'ecologica confezione verde. Ecofon Verde della Fast Plus. Su questi lunghi silenzi ed ho visto fonti e cose e mani che non dimentico mai. Avevo un soffio di vita e tutto da capo, così tutto da capo. Nudo, aspettando che soffi il vento, aspettando che soffi il vento, aspettando che venga il mio momento. Abbiamo andato. Questi sono gli Scruiners. Scruiners con la K, mi raccomando. Scruiners. Punk da Milano. Come foglie, il titolo del gruppo. E in realtà. Scusa? Il titolo del pezzo. Titolo del pezzo, scusate, ma la foranza aumenta la fattanza con la risonanza. Io tornerei il 25 aprile, dove ballando io ballai, o anche lei, non lo so, essi ballabbano con gli Studio Moretti. Sono infortunato, però ho seguito piacevolmente, con birretta in mano, chiacchiere e testa che insomma ancava da una parte all'altra. Allora, devo dire che sotto cassa i ragazzi spaccheggiano parecchio. Poi la versione qui da studio, non so, scaricato dal vivo perché dare più l'idea, non c'ho. Ma se vi capita lo Studio Morena sotto mano, andate a zampettare, avete le casse nelle orecchie, voi muovete i piedi, può essere una bella cosa. Vi rimandiamo così, così dalla radio. Sì, sì, mandiamoli così. E così spegnendo tutto dal vivo suonano tutto a mano i ragazzi. sentirà. Ogni pirata metropolitano che c'è qua dentro questo spazio, mandiamo un bacino, diciamo buona fortuna. È live questo? Sì, l'ho scelto apposta perché rincarava la dose su quello che avevo ballato io, perché diciamo che quello che è stato messo in rete è molto digitale, invece da vivo rendono parecchio. Long John Silver. Pirata. Come alla drum and bass in 7/8 ricca. Chiaro ma con le orbite degli altri. Ora mi chiedi tanto perché tanto posso darti. Calcinacci in faccia, volti bianchi, figli nati stanchi, fumo cardi. Non vado in paro a farli, la malinconia è caligine, sta lì ad adattarsi. Folle, mondi infami come tanti, leggo teste e vedo scalpi. Indosso piume da voltoio in bocca, ho denti di sciacalli. Gira una brolla, poi gioca ad anticipare. Il tanto crollo se bolla con pesi maxi. Nel cervello c'è una gobba, mi tocca domesticarmi. Con la paranoia in spalla e la voglia di sterminarmi. La verità non me la ricordo più come fa. Tu come Cristo fai pietà. Io ti ho sempre dato il peggio e solo per necessità. Io sono Long John Silver. Un altro zero a bordo con la faccia da stronzo, la testa a mille. Ormoni l'aria frigge con il crew, faccio le cinque. Finché poi non torno a casa il cesso sbocca le tonsille. Il nome è Long John Silver. Un altro zero a bordo con la faccia da stronzo, la testa a mille. Ormoni l'aria frigge con il crew, faccio le cinque. Finché poi non torno a casa il cesso sbocca le tonsille. Yo. Finché poi non torna a casa il cesso sbocco le tonsille. Il nome è Long John Silver. Mi ritrovo ancora sulle stesse cose, con la faccia rossa tipo Serse Cosmo. Noi cosmicamente stiamo agli antipodi, ma fili di ricordi che porti ci rendono simili. Ma cimiti fake, resti riprimiti dei miei presti schiavi, frulliamo percorsi ripi. Se un cristiano levi tutto, non distingui più pensiero solo dagli altri, per quanto siano dissimili. Ma dirò la verità, la vita è una puttana, solo a me non me la dà. Tu come cosa fai pietà? Io si ho sempre dato il peggio solo per necessità. Io sono Long John Silver. Un altro zero a bordo con la faccia da stronzo, la testa a mille. Pulmoni in aria frigge con il crew, faccio le cinque. Finché poi non torno a casa il gesso sbocca le tonsille. Nome Long John Silver. Un altro zero a bordo con la faccia da stronzo, la testa a mille. Pulmoni in aria frigge con il crew, faccio le cinque. Finché poi non torno a casa il gesso sbocca le tonsille. Finché poi non torno a casa il gesso sbocca le tonsille. Il nome è Long John Silver. Long John Silver, nostro padre fondatore. Noi siamo venuti qui carinamente e simpaticamente per parlare, in amicizia. Ma io non voglio avere niente a che fare con lei, eh? Ma scusi, perché che le ho fatto io? Che cosa mi ha fatto? Che cosa stanno facendo quelli come voi a questo paese? Ma quelli come noi chi? Quelli che buttano l'immondizia in mare, quelli che vanno in giro armati, quelli che se ne fregano delle regole, che non hanno rispetto per le persone e per le cose, quelli che guardano solo la televisione, che hanno disprezzo per la cultura, bravo, che hanno votato per tutta la vita i partiti di governo. Bravo. Senta, ne sa lei di quello che ho votato io? Io i partiti li ho votati tutti. No, mi consento un attimino, perché voi intellettuali vatteggiate tanto, parlate così sofistici, state sempre a analizzare, a criticare, a giudicare, ma non sai qual è la verità. La verità è che non c'è stata, capi più un cazzo! Ma da boh! Ma lo so! Lo sai, sei arrivato anche tu, ma lo senti a questa qui? Scusate, dottor, ma a me mi pare che aveva ragione un signore. Visto. No, perché se voi la volete buttare per forza in politica, io le devo dire che io di politica non me ne intendo. Per me la politica è una zozzonata. Però una cosa l'ho capito. che a noi adesso, ci tocca lavorare per riparare i danni che avete fatto voi in 40 anni di malgoverno e del consocialismo. Ma noi chi? Noi chi? Noi sinistra? Noi comunisti? E quale malgoverno? Quale consociativismo? Fino alla liberazione ci hanno sbattuto in galera, dal 48 in poi ci hanno cacciato via da tutte le funzioni pubbliche. I nostri spazi ce li siamo conquistati, difesi con le nostre forze, il nostro talento, le nostre intelligenze. Non so se è chiaro, Alessandro! We'll be right back. prego. E niente, pezzo dei Mecanoidi, Z Reticoli, che tradotto in italiano, che poi alla fine tutti si è spento, tutti, si è tutti spenta la scatola chiede, magica, cazzo, tutti stavo si leggendo. Chiedono effettivamente cos'è Z Reticoli. Sì, io sono 20 anni che me lo chiedo, forse di più. E io in realtà sono, mi sono imbattuto in un articolo l'altro giorno, quindi ho visto un attimino che si parla, comunque è un sistema stellare, binario, è a 40 anni luce dalla Terra, c'è un sole, ha più o meno è come impostata la Terra, no? C'è un sole che gira. Però qui dice che è composto da due soli, da due stelle simili al sole, due... di quinta magnitudine. Sì, sì, sì, ma c'è anche tutta una storia dietro di film nella fantascienza, di ufologia, insomma. Vabbè, in questo caso i Meganoidi comunque volevano non arrendersi al sistema imposto. Analizzando il testo, poi va bene, poi ve lo riascoltate. Tra l'altro c'è come protagonista nel video, c'è quello dei cavalli marci. Ma dai, no, mi mancava questo. È lui che cerca persone scomparse, lui stesso. Vecchio io. Però è molto profonda come molto cosa. Profondo come canzoncino. Tutto ciò è Z Reticoli. Tutto ciò è Z Reticoli. Visto che siamo quasi all'ufologia, andiamo mi dagli scienziati. Sì. Maschio pubere stordito. A te per cui la scalata al monte di Venere è impervia e irta di finostro rimedio. Bevi alcol, bevi Campari, Martini, Aperol, bevi roba invecchiata, ringiovanita, bevi Cinar, bevi l'amaro dei frati, quello che si ottiene proprio spremendo i frati. Mescola tutto, ma chi se ne ciava? E se ti senti in colpa per aver mangiato troppo, bevi amari punitivi che ti sconquassano, che ti prendono a cartoni. C'è scritto anche sull'etichetta: quelli che non salva, uccide. Come una manovra finanziaria? Ma sì, inquartati. E quella ragazza a cui non riesci a parlare ti apparirà sotto una luce diversa, sta puttana. Oh, ma mi raccomando, bevi responsabilmente, eh? Ah. Mi rivolgo a te, maschio pubere stordito. Scusate, ma lo diciamo prima perché secondo me vanno preparati. Sì, secondo me. Abbiamo mandato un profeta che parlava, però qui ce n'è un altro che la musica. E voglio dire, visto che scartavetrerà tutti, vorrei avvisarli. Gli diciamo dopo chi è, lo mandiamo prima, non lo so. Ma sì, il profeta che vi abbiamo fatto ascoltare adesso è partito 3 volte perché aveva l'ansia di partire. Voleva partire. Questo qui, vabbè, è una vecchia conoscenza della musica italiana che... qui è nel suo progetto solista. Sì, di un album del 2012, Odio i vivi. Ve lo sparate perché ve lo sparate per forza, lo mandiamo noi. Sì, per forza, quindi attenti al testo e poca carta vetra. Non cambia niente. Vivo sul filo dell'invisibilità. Grazie alla gente. E vado sotto. E vado sotto. Che normalmente ingoia e sputa chissà. Se vuoi capirmi, dammi del senso. Dammi del senso. grande città. Grazie alla gente. Sì, questo era Edda, l'ex cantante di Ritmo Tribale col suo progetto solista del 2012, giusto per chiarire lo spazio-tempo. Chiarito, chiarito. Sfracelleresti mai il cranio a tuo cugino con una zampa di maiale? No. Appenderesti mai una vecchietta per i piedi ad un elicottero? No. Strapperesti mai le orecchie ai tuoi negozianti di fiducia? No. Scaricheresti mai un film da internet? Sì. Scaricare un film da internet è reato? E me hai detto sì. Hai detto sì? Hai detto sì? Ah, sì. Ah, ho sentito, scusa. Una questione burocratica. È una storia di buche senza cartelli. È una storia di lividi e sportelli. Di ingiustizia sociale, ma di giustizia divina. Ed è una storia in cui si gira molto, in cui tutto gira, soprattutto i maroni. Nella mia strada, che è una bisaneva, ma lei è una bisaneva, che irla che la no, ma me lo menga vista, porca di neva, in la bisaneva, pam, son burla giò. Ti tinchi a Saudi, ue, avuto il sindic, mandi denda a parla un sportel, son tenda l'ego di ue, ma come, a che in giri bus, senza cartel. Nella mia strada, sì, lei è una bisaneva, lei è una bisaneva, che irla che la no. Sono famati, schisci la gengiva in della bisaneva e me fa malamo e me fa. Vabbè, cosa mi importa a me della sua brisa? Cosa che entri mi? E che il vagassol qui piace con la porta. Quella lì è competenza del reparto, sì. Su tanda su, pintal, qui pian de corsa, qua su sta su, ma manda giù, ma manda giù in un'altra stanza. Uè, qua su sta giù, ma manda su il camo, che ludi a tischmille. È una bisaneva, è una bisaneva, che ieri la guerra no. Nella mia strada bisogna riacquatala, se no porca si dela, tu male li anche a mo. E se no, disimi, ma con tutto quello che paghiamo di tasse, ma ci sarà almeno una figura preposta per questi problemi? Ma metteteci, che ne so io, un tappabuchi, un tappabuchi! Su propino, come la sia, ma fa gira come un merluz, per trova quel che pensaria, e con petempe stupai bis, el dis. Vabbè, che faga una domanda, dopo me la porta chi? Sì, ma con tu una foto bella grande, formato 2x23. E mi ho scritto che è una bisaneva, è una bisaneva, che fino a ieri la guerra no, nella mia strada. Murare una foto, ma la mia macchinetta l'è rotta e poi di no. Son vegni via in casa Menneger, son tanda ca, l'eramo lì, le passa un ghisa di uè, che il senta, la minga vista, l'è andata dentro fin qui, te capì? E mi crudì, sa, a lei è una bisaneva che fino a ieri la ghera no. Ma te scaggendo dentro lì, che è un ghisa, che il vaga che ne disa, de qua ta la gio. Sabadatita, sababa, sababa, sababa, sababa, sababa, sababa, sababa, sababa, sababa, sababa, sababa, sababa, sababa, sababa, sababa, sababa, sababa, sababa, sababa, sababa, sababa, sababa, sababa, sababa, sababa, sababa, sababa, sababa, sababa, sababa, sababa, sababa, sababa, sababa, sababa, sababa, sababa, sababa, sababa, sababa, sababa, sababa, sababa, sababa, sababa, sababa, sababa, sababa, sababa, sababa, sababa, sababa, sababa, sababa, sababa, sababa, sababa, sababa, sababa, sababa, sababa, sababa, sababa, sababa, sababa, sababa, sababa, sababa, sababa, sababa, sababa, sababa, sababa, sababa, sababa, sababa, sababa, sababa, sababa, sababa, sababa, sababa, sababa, sababa, sababa, sababa, sababa, sababa, sababa, sababa, sababa, sababa, sababa, sababa, s ba da tu da da za su za su za ba ba ra pa pa pa pa ka na pa pa pa te pa pa ba pa ra pa ra pa ra pa ra pa pa pa ra pa ra pa ra pa ra pa ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba. Beh, te capì? Te capì? Sono loro. Te capì è il nome del gruppo? Sì, è un ensemble di Milano che insomma rifà un po' questi vecchio sound cantautoriale, un po' teatro cabaret, no? Contemporaneo. Contemporaneo, loro sì, sono contemporanei, sono in giro da una ventina d'anni, penso. E la Busa Nuova invece è un vecchio pezzo. Nanni Svampa, Walter Valdi, dicessi sì, prima. Sì, esatto, 1964, mi sa che il primo pezzo è negli anni 60 comunque. Però la Busa Nuova è il pezzo adesso mandato ora, ricoverizzato, dico meglio. Coverizzato, sì. Però abbiamo un doppio tappeto, eh. Doppio tappeto, qui si fa i stramix. E vabbè, questo era il penultimo, quindi ci avviciniamo all'ultimo. Ci avviciniamo all'ultimo. E ci facciamo saluti. E vi salutiamo. Eh sì. Vi salutiamo perché dopo chiudiamo. Chiudiamo baracca, giù le tende, giù le tapparelle. E chiudiamo baracca con un grande classico, di cui non diciamo niente, come il Robertone prima. Questo vi diciamo solo che viene dalla Super Classifica Show 1980. Il Super Telegattone? Madonna, una schifezza del genere, pre-media, sempre il peggio della merda, ma chi andò a partecipare all'epoca è una roba che magari conoscerete. Noi la mettiamo come gran chiusura. Noi la mettiamo come gran chiusura, assolutamente, chiudere in Super Classifica direi che è bellissimo. E l'appuntamento è rinnovato la settimana prossima, mercoledì prossimo, Pillola Rossa in diretta da ZAM, Nettuno e Belluno. Orario è sempre questo, diciamo, questo range che racchiude dalle 8:30 un po' meno, 8:40 già un po' di più, 8:45 insomma, dalle 8:30 alle 8:45 qui non siamo molto puntuali, ecco. Mai puntuali. Questo l'avete già capito tanto. E stiamo anche sforando coi tempi, eh? Andiamo oltre i novantesimi a cui eravamo abituati, sempre più sciallando. Siamo andati oltre i 100, va bene. Ultimo pezzo, via Boffaland, via i treni all'alba e ciao col Super Classifica Show. Alla prossima, prego, contessa, si accomodi, dopo di voi Decibel. Vuoi solo le cose che non hai, parli delle cose che non sai, cerchi di giocare ma non puoi, pensi solamente ai fatti tuoi. Chi sei? Contessa, tu non sei più la stessa. Vuoi che io rimanga nel tuo letto per poi sbattermi su e giù? Non ti lamentare se domani non ti cercheremo più. Ma vorrei soltanto averti qui. Sei accattivante già così. Ti difendi con il DDT. Fai pesare troppo quei tuoi sì. I Decibel. Chi sei? Contessa, tu non sei più.